che hai paura, ed è di notte che non sei sicura. Ed è di notte siamo capitati. Ehi, una festa latinoamericana. Aguardiente, piña colada, rosa tatuata di passione. Ti vedo e non ti vedo, naufragata nella danza.